Wall Street, i viaggi del lupo. E benvenuti anche questa settimana a Wolf Strips su Radio Lupo Solitario. Come al solito siamo noi tre. Alla regia abbiamo il Super Domenico. Ci siamo. Ok. Alla mia sinistra abbiamo la Cri. Ciao. E poi ci sono sempre io che rompo le balle a tutti quanti. Però si vede che sei stanco stasera. Sì, cioè, si sente prima, anche perché sono abbastanza stanco oggi. Ho avuto una giornata abbastanza provante e ne senti anche la mia voce, un po' rauca, sì, no? Sì, è vero. Adesso ma metto un filtro qualcosa. Bravo. Metti qualche pitch che sembra tipo Alvin quando parla. Ciao ragazzi. Va bene. Stasera cosa ci proponi, Domenico? Al solito, musica da un po' tutto il mondo, musica nuova, elettronica, vediamo. Paese? Poi, il primo che andiamo ad ascoltare, che è Like Pluto, è del Los Angeles. Bene, allora adesso... Aspetta, volevo salutare una presenza che abbiamo avuto l'onore di avere qua per un breve periodo. Ciao Ivano! Facciamo partire gli applausi. Ciao Ivano! Addirittura. Vabbè, chi vuole venirci a trovare, noi siamo qua. Giusto. Iniziamo ad ascoltare il primo brano, che è Like Pluto con Let It Bleed. E allora andiamo a Los Angeles. And my guts and my bones ache, and I know together we fall apart. And nothing can live, nothing can thrive when you keep me in the dark. And you act so damn cold, boy, don't you know that you're the one with all the control? You've cut me now, prepare to watch me bleed. Let it bleed. Tanto qua ci criticano la musica oggi. Siamo troppo prog. Sì, è vero. Vabbè, potremmo accontentarli, dai, siamo qua per accontentare il pubblico. Si può fare di tutto. Troviamo dai. Qualche pezzo un po' retro, versione un po' più elettronica. Guarda che già il pubblico festeggia. vabbè, dai. E intanto volevo salutare il Family Pub di Narso che ci sta ascoltando. Ciao Family Pub. Che poi dopo li raggiungeremo. Tra poco arriviamo. Ma io vorrei dai. Dirgli che anche il mio fratellino ci sta ascoltando. Facciamo un saluto anche al Felice. Al dai, Felice. Tutti insieme. Ciao Felice! Ciao Felice! Sì, tanto mi partono i timpani quando faccio queste cose. Va bene. E passiamo dalla, diciamo, quindi eravamo a Los Angeles. Adesso dove andiamo? Rimaniamo a Los Angeles. No, vabbè, stiamo al caldo, c'è il mare. Dobbiamo girarlo sto mondo, dai. Vabbè, con calma, un po' per volta. E questo qua è Chet Code con un altro brano che si chiama Sober. Cambiamo sempre un po', adesso andiamo un po' sul soft, poi dopo accelereremo. Una domanda un po' da ignoranti, ma cosa vuol dire sober? E che ne so io, vedi che allora non sono così ignorante. C'è Wikipedia, no? Ma è il titolo del brano, può anche non voler dire nulla, non è che capito. Ecco. Andiamo ad ascoltarlo. It's been a while since I thought about you. It's been a while, have you thought about me too? I'm meeting him at the place that we used to. It's been a while since I thought about you. God, he almost looks like you in the dark. Sitting in the same corner at the bar. Yeah, we took so many shots, we went too hard. God, he almost looks like you in the dark. He ordered a drink before I could notice that Jack and Coke brought us into focus. I took a sip, it tasted just like it used to. It's been a while since I thought about you. I wouldn't say it sober, but the truth is coming out. I didn't miss you until now, until now. In my right mind, it's over, but the drinks are talking loud. I didn't miss you until now, until now. Ti dicevo che stavamo un po' aumentando di ritmo. Piano piano. Deve groove, salire un po'. Sale. Il groove. Sì. La groove, come si diceva una volta. Ma mi stavi dicendo che hai fatto un po' di ricerche. io ti prego subito. No, niente. Siccome stasera manca il lato serio del programma. Sì, è vero. Sara che ci racconta tante cose. Ho detto, cerchiamo di sostituirlo cercando qualcosa di serio, no? Allora ho pensato, in questo momento. Tu. Sì, perché anch'io ho un piccolo lato serio, adesso lo scopriamo. Allora, in questo momento in televisione, gira che rigira, vedi solo programmi di cucina, no? Allora, cucina e scienza, ho provato a guardare su internet e ho scoperto che un gruppo di scienziati ha trovato una ricetta per riprodurre i prop. Cioè, quelle aree che si fanno dalla parte posteriore del corpo. Scientificamente hanno riprodotto quest'area, quindi è un passo avanti per la scienza. Sì, sì, sì. C'è anche la ricetta. Certo, potremmo anche, prossima volta che c'è Sara, potremmo fare anche un approfondimento. Un'analisi chimica. Vedete, no, che serietà questo programma. È bello che hai la faccia più seria di questo mondo. Ma senti, visto, è il mio lavoro. Visto che si chiama Wolf Trips, hai trovato da dove viene questa, questo studio? No, perché lo stavo leggendo mentre chiudeva la canzone, lo ammetto. Va bene, dai. Comunque, dai. Cioè, ragazzi, la scienza ha fatto un nuovo passo avanti. Dopo la scoperta del DNA abbiamo la scoperta della ricetta della... scorreggia, poi lo dovevo dire, ragazzi, ero lì che quindi, il peto. Un grande passo per la scienza, un grande liberazione per l'uomo. Fabio, sai che c'è anche un numero di peti giornaliero? Ma magari io li batto, Giusto, Va bene, ecco. Adesso cambiamo aria. Ecco, perché... tanto per cambiare aria. Si stava appesantendo la situazione. Passiamo da Los Angeles al Canada con un brano che a me piace parecchio. Loro sono Black Bear, quindi non beer come birra, ma beer come orso, quindi orso nero. Orso nero. E il brano si chiama Chateau. Quindi non so cosa voglio dire. Non Vabbè, me lo ce chiedere, lo ascoltiamo, sono curioso. Ad ascoltarlo. E come dicevi tu, il groove inizia un po' a aumentare. Sweet 23 at the chateau. Had a hard man, I'm trying to get it back, dog. Trying to get it back, trying to get it back, trying to get it back. Age 25 and I'm rich now. No excuse, she'll be acting like a bitch now. I gave you dime in the pool, write the checklist. She want a ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these things with the big butts. Take a homebody, turn her to a rich slut. Feel like I can't trust nobody, even day ones. Watch out for them snake ones. Sweet Benji today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. Play, play, play, let's go. Please, baby, talk slow, I'm off the blow, I'm off the draw, I'm in my zone, grab your girls, grab your phone, and let's go, get ready, we going to the chateau, legs around my neck, I got your nails up in my bag, get ready, we going to the chateau, no love, no love, no love, no love, just fucking in a California cage, baby. Sweet 23 at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. Trying to get it back, trying to get it back, trying to get it back. Age 25 and I'm rich now. No excuse, you'll be acting like a bitch now. I give you dime in the pool, write the checklist. She want a ring, ain't fucking with a necklace. I'm a fool for these things with the big butts. Take a homebody, turn into a rich slut. Feel like I can't trust nobody, even day ones. Watch out for them snake ones. Sweet Benji today at the chateau. Had a heart, man, I'm trying to get it back, dog. White linen, white rose, let's go. Oh, oh. So please, baby, please, baby, talk slow, talk slow. I'm off the blow, I'm off the draw, I'm in my zone. Grab your girls, grab your phone, and let's go. Get ready, we going to the chateau. Legs around my neck, I got your nails up in my bag. Get ready, we go. Tra l'altro questo brano è produzione Tarro, te lo voglio ricordare. Quindi la gruva sale di brutto. Ne avevamo già parlato settimana scorsa. Com'è che si chiama questo gruppo, ricorda? Black Beer. E qui allora ti ho preso in castagna. Ho trovato un'altra notizia, sempre. In poche parole, negli Stati Uniti, tempo fa, in Nevada, questo signore torna a casa, no? E davanti a casa trova questo gruppo musicale che si chiamano... Ah, davvero? È Black Bear? No, ha trovato invece gli orsi bruni davanti a casa. Diciamo che si è cagato addosso dalla paura. E l'unico ha trovato la nipote che era in casa e gli ha detto di suonare il violino. E gli orsi si sono calmati sentendo il suono del violino. Quindi hai capito che fortuna ha avuto questo? Pensate che roba. E qui la musica è una grande arma. Giusto, giusto. Mettete giusto. I fiori nei vostri cannoni. Caspita, hai visto? Cioè, manca il lato intelligente, manca il lato intelligente del gruppo, ma oggi sto cercando di tenere botta, no? Come si dice? Oggi siamo proprio Fabio e Mingo. Oggi sono un minchione gigante. Vabbè, quindi la tua, diciamo, la tua perla di saggezza odierna, sì, l'hai oggi detta. Oggi ne ho già dette due, l'hai quindi detta. Io fermerei qui perché poi dopo divento troppo accoppolato. Allora facciamo così, facciamo ricordare alla Cri i nostri contatti e poi ti lascio annunciare il prossimo brano. Preparatelo. Aia. Allora per... No, no, a te. A te. Ce l'ha con te, mica con me. Allora, il numero di telefono, il numero di telefono è 338-222-8983. Potete mandarci anche messaggi vocali, messaggi WhatsApp, che noi ci siamo. Ok, va bene, dai. Potete ascoltarci? Sì, dall'app, possiamo ascoltarci dall'app e dal sito internet radiolupo.it, come sta facendo sicuramente il pub che voglio ricordare di nuovo, visto che poi avremo una serata, il Family Pub di Narso. Posso salutarlo? Salutalo. Ciao Family Pub! Salutalo, saluta. Vabbè, dai, lanciamo il prossimo brano. Vai. Allora, devi il prossimo partire brano... da qua, eh. Ok. Quello è John Bellion, quindi sarà francese, andiamo in Francia. È il brano che avevamo ascoltato settimana scorsa. Porca vacca, ma io a memoria non sono messo bene, ragazzo mio. Vai, vai. E invece il titolo è All Ten Low. Ma chi è che è il remixer? E quello era il difficile. Ma tu vuoi sapere troppo. L'ho chiamato ieri sera, ma era occupato. Dovrebbe essere stato Buxilion. Buxilion è sempre francese. Cugino. Bouillon e Buxilion. Giusto, cugini. giusto. Andiamo ad ascoltarcelo. Was the knight in shining armor in your movie? Well, put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Che si è fatto male, eh? Lo stanno picchiando, non lo so. Lo stanno sodomizzando. Sì. Va bene, va bene. Andiamo ad ascoltare adesso il prossimo brano, che è passiamo un po' alla drum and bass, però prima cambiamo genere. Cambiamo genere. Sì, diciamo andiamo a incrementare tu, sempre un po' di più. Tu suonavi drum and bass. Sì, sì, sì. Quindi sì, ci sì, potresti sì. raccontare tante belle cose. Sì, diciamo che la drum and bass è particolare, nel senso è un qualcosa che nasce molto dall'underground. Poi c'è stato un piccolo periodo anche in Italia in cui era diventata veramente commercialissima con i Pendulum o altri generi. Conosco. Sì, sì. E in quella scia lì ci siamo lanciati anche noi con la nostra vecchia band Brain Shocker a fare brani drum and bass e punk, però noi dovevamo sempre fare qualcosa un po' di... Vedi che rock c'è sempre. Di estremo, di diverso, perché la drum and bass normale non ci piaceva troppo. Invece per esempio il brano che ascoltiamo dopo, che è The Random Movement, è liquid drum and bass, quindi... È più fluida. È più fluida, bravo. Io pensavo aveva dato una fregnaccia, invece ci ho preso di brutto. No, ci ho preso di brutto, Te l'ho detto che sono il lato serio del programma stasera. E ti dicevo... Il prossimo posto dove ci muoviamo a livello geografico è il Florida. Ah, quindi rimaniamo sempre in ambito di sole, Los Angeles, sì, sì, Florida. Sì, sì, sì. Florida. Mi piace di più perché... Fa più English. Sì. Oh yeah, Sgaranao. Che si trova nello stato di... USA. Certo, fregato. Andiamo ad ascoltarlo con Random Movement con Don't Wait. E ritorniamo qui, dai, dopo questo pezzo. Era un po'... Io pensavo che aumentava la groove e invece me l'ha un pelo abbassata. Allora, no? Allora c'è da dire che la drum and bass è molto varia come genere, non è... Quindi questa qua è la parte, diciamo, più morbida. Il brano che ascolteremo dopo, che ti lascio introdurre a te, visto che te lo sei studiato, è invece una drum and bass forse più come ti aspetti tu, quindi un po' più ritmata, sincopata... Ah, wow, sincopata, sì, sai che piace, io adoro sincopato. Sincopato. Tutti quei ritmi. E quindi adesso noi andiamo in Francia, perché ho letto che sono francesi questi ragazzi qua. I Dirty Phonics. Yes, dovrebbero essere di Parigi a memoria. Ok. E sono stati un gruppo precoce, fondato nel 2004, nel 2006 girava già la grande. Un paio d'annetti andavano. Ma io ti dirò che forse nel 2000, adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra nel 2008 forse avevamo suonato anche con loro. Sì, è un personaggio famoso. Cioè, ragazzi, qua dovete scrivere e noi vi mandiamo l'autografo, ok? Giusto, giusto, giusto. Bravi. Allora, voi scrivete al 338-222-8983 e Domenico vi manda l'autografo. Su WhatsApp? Sì. Lo facciamo, facciamo la foto e glielo mandiamo. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Siamo tecnologici, non ho capito io. Tra l'altro, già che ci sono, ho suonato anche con il buon Felice. Ah, che stavamo nominando prima. Che salutiamo ancora. Ok, quindi che pezzo andiamo a ascoltare? Io sono sempre in difficoltà. Allora, no, sentiamo. Dai, è facile va questo, bene. Dai. No, perché vedo con chi hanno suonato, quindi. I Dirty Phonics X Riot. Riot è quello difficile da dire. Con Got Your Love. You got your love, got your love, you got your love, that's me love. And keep the fires burning, baby. Keep the fires burning, baby. You got your love, got your love, you got your love, that's me love. And keep the fires burning, baby. And keep my fire burning, make it hot. Radio Lupo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Pubblicizza la tua attività e cresci insieme a noi. Un nostro consulente è a tua disposizione al 349-7731-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Quotidiano La Provincia di Varese. Dal 2005 in edicola. Il quotidiano della tua città. Segui anche l'edizione web su www.laprovinciadivarese.it. Il quotidiano La Provincia di Varese è partner ufficiale di Radio Lupo Solitario. Amici, vi presento il Family Pub. Si trova in via Patriotti 7 a Inarzo, in provincia di Varese. Da martedì a domenica trovate ottimi panini, focacce e piadine, oppure piatti veloci. La pizza è veramente buona, tanto che si può avere anche a domicilio o da asporto. Fantastiche le birre Poretti con tutte le sue varietà di luppoli. Sala giochi e premium TV per seguire le partite della tua squadra del cuore. area esterna e possibilità di prenotazioni sala per eventi privati e feste a tema. Tutti i weekend live music e DJ set con Radio Lupo Solitario. Family Pub, divertimento per tutti. Ci vediamo lì. Basta, non ne posso più! Ehi, amore, che succede? Giornata storta? Peggio! Stasera siamo invitati a cena da Luciana e non ho nulla da mettere! Con la mia taglia, poi, non si trova granché. Soliti colori, soliti tagli, sono disperata! Quasi quasi chiamo e dico che non andiamo. Ma cosa dici? Andiamo da Matilda e Camillo e il problema è risolto! Matilda e Camillo, specializzati nel vestire uomini e donne dalle taglie comode. A Travedona, Monate e Varese, in via Maretti 96. Infoline 0332 77 34 75 e su matildaecamillo.com. Matilda e Camillo taglie comode, non per sembrare più magra, ma vestiti per sentirti più bella. Tutti i mercoledì Matilda e Camillo saranno in diretta su Radio Lupo Solitario dalle 20 alle 21. Wolf Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Siamo tornati dopo la pubblicità con questo brano che è di Ziu più Niro. Niro Dreams. È famoso. Sì, sì, Niro ha fatto un sacco di brani anche commerciali. Drum and bass commerciale lui. La conosce? Sì. Non è male. Pensavo invece che era un po' più underground, ma se mi dici che era commerciale... Sì, è partito diciamo dal mondo underground per poi spostarsi. Ha fatti i soldi. Ma ti volevo parlare di una cosa un po' brutta del mondo musicale, del panorama musicale non underground. Hai sentito la storia quella di Elio e le Storie Tese? Che si sono sciolti? Che faranno l'ultimo concerto. Sì, l'ultimo concerto perché finiranno di suonare. Sì. Quello è un bel colpo. Che devi farci? Anche perché secondo me loro sono l'unico gruppo, forse uno dei pochi gruppi, che sono riusciti a fare della musica con la satira insieme. Cioè, le loro canzoni erano geniali. Vero. Sì. Ti ricordi diversi. C'era un pezzo che parlava mio cugino. Questo faceva tutto. Ed era vero, perché tu quando andavi in giro con gli amici o in piazza, tutti avevano il cugino che era super figo. Beh, ma è proprio una cosa. È rimasta questa cosa qua. Certo. Mio cugino. Oppure il ballo delle medie. Sì. Quella sì. Era storia. Sì. Te le cantava con questa ironia che sembrava quasi sciocca. Però se ci pensavi, dici. Cavolo, ma è vero così? Cioè, sì, è vero. Vabbè, faranno quest'ultimo concerto, non mi ricordo proprio, dopo lo cerco un attimino, e ho già visto che ovviamente sarà super pieno di gente, perché tutti vorranno esserci all'ultimo concerto. Poi, da musicista, o meglio, ex musicista, devo dire che tecnicamente sono fenomenali, cioè sono tutti maestri, secondo me. Cioè, dal bassista. Faso a anche il chitarrista, ma lo stesso Elio. E una volta sono andati a Sanremo, hanno fatto un Sanremo suonando una canzone che a dir tanto aveva una nota. Ma infatti era la canzone mononota. Ma era bellissima, cioè avevano costruito una canzone su una nota sola. Quando adesso la gente si mette a suonare super assoli 500 note, loro con una nota sola ti hanno fatto un pezzo e tirava anche come pezzo. Ma mi sembra che non ha vinto. No, se non ne ha vinto, guarda che sei arrivato seconda. Si erano piazzati bene. Adesso non mi ricordo perché io non sono un grande amante del Sanremo, cioè non lo guardo. È vero. Però possiamo andare a indagare, sai com'è? Wikipedia ci aiuta. No, ma io sto andando a memoria, no? Ah, e quindi... Domenicopedia. Bravo. Quindi praticamente non si sa. Non si sa, devi ancora leggere tutta la pagina, sono tipo 7-8 capoversi. ma non lo so. Sembri Super Vicky in questo momento, non so se te lo ricordi. Il film degli anni 80, il telefilm. C'è questa bambina che leggeva il libro in 2 secondi, che era il robot di casa. Comunque non sono riuscito a trovare. Ragazzi, si è piazzata bene, se ve lo dico io, fidatevi. Sì, mi ricordo. No, mi ricordo che aveva avuto anche il suo successo, ma tecnicamente era una bella canzone. Sì. Cioè, poi io sono rimasto basito da... Dal fatto che l'abbiano fatto con una nota. Con una nota. Già. Vero. Una genialata. Adesso, invece, per tornare a persone secondo me geniali, c'è anche questo tizio qui che abbiamo già presentato settimana scorsa. È quello che va in giro con la maschera da... Aspetta, lo so che in radio non si vede, però te lo posso far vedere in modo che lo riusciamo a descrivere un po' meglio. Ecco, io farò la descrizione tecnica. Ecco. Allora. Eccolo qua, questo è il tizio. Questo è con reale. La faccia non ve lo descrivo perché è un ragazzo comune che potreste trovare direttamente in giro. Pensate, magari sotto un ponte. Anche. Un ragazzo la qualunque, okay? Quando si veste invece è proprio il classico marshmallow da cartone animato, con due occhi neri a versione di X, sembrano quasi due denti cavati, e una faccina nera che sorride. Due denti cavati, cioè proprio... Cavolo, hai fatto la descrizione, uno potrebbe disegnare, perché in radio uno immagina, quindi... Perché devi comunque vedere, concentrarti e parlare nel più semplice modo possibile. E pensa che il brano che ha remixato si chiama Mask Off, quindi vuol dire via la maschera. Ah, quindi è la faccia, è un ragazzo da qualunque. C'è il senso di qualcosa. Andiamo ad ascoltare quindi Future con Mask Off di Marshmello Remix. Oh yeah. Never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, stop. Fuck it, mask on, mask bitch. Mask on, stop. Fuck it, mask on, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, stop. Fuck it, mask on, mask bitch. Mask on, stop. Fuck it, mask on, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, mask on, fuck your mask on, fuck your mask on, fuck your mask on, mask on, fuck your mask on. Fuck your mask up, Percocet, Miley Percocet, mask on, stop, fuck your mask on, mask, bitch, mask on, stop, fuck your mask on, mask on, Percocet, Molly Percocet, chase a chick, chase, never chase a bitch, chase no bitch, mask on, stop, fuck your mask on, mask, bitch, mask on, stop, fuck your mask on, mask on, Percocet, Molly Percocet, chase a chick, chase, never chase a bitch, chase no bitch. Mask on, mask on, fuck your mask on, fuck your mask on, fuck your mask on, mask on. Stasera abbiamo anche un po' di ascoltatori attenti che sì, ci hanno redarguito. Ci stanno sgridando e ci stanno correggendo su Elio e le storie tese. Allora, ci è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore, che non faremo il nome, felice, che ci dice che ha vinto il premio per la critica. Sì. E è arrivato secondo alla finale. E non era. Vedi, secondo alla finale, però era arrivato. Io me lo ricordavo, sto fatto qua. E non era una canzone creata su una nota, ma su una sola tonalità. Ok? E prendevano. L'avevano fatto per prendere in giro un cantante brasiliano. Così ci comunicano. Va bene, va bene. Ringrazio il tuo ringraziamo spacciatore, la nostra fonte, di informazioni. Grazie, felice. Che il nostro ne sta sempre, uomo Wikipedia, che ne sa sempre una più del diavolo. No, no, ma lui le sa, non è che utilizza Wikipedia, lui proprio le sa. No, no, è vero, ma anche a casa tu dici qualcosa, lui ti corregge. Lui è un pozzo di scienza. E quando era a scuola, adesso è una chicca, non studiava mai. Cioè io andavo a scuola, leggevo 20 volte il libro, poi lo buttavo, non ci capivo niente. La leggevo una volta e lui la sapeva. Un giorno mi incavolo e gli ho detto: senti, adesso me la ripeti. Oh, la sapeva. Ah. Come cavolo fa quel ragazzo non lo si sa. Un piccolo genio, vabbè. Sarà memoria fotografica. Non lo so. Sarà imprinting, quando mio padre ce le dava direttamente. Sarà l'imprinting proprio addosso. Sarà la ciabatta quella. E la nonna con la scopa, non so. Quando andavi in giro che c'era il manico di scopa. Vieni qui! Devo iniziare a mangiarla pure io, pasta e menta. Pasta e menta, ragazzi. Questa la raccontiamo un'altra volta. Infatti. Pasta e menta è stata ci vuole una puntata intera, dai. Andiamo avanti con un po' di musica elettro, come dice Amentuccia. Dicevo, andiamo avanti con un po' di musica elettro. Electro. Questo è Cardi B con Bodak Yellow. È un remix. Sì, come cacchio si pronuncia? No? Y2K. Com'è che? Y2K. Vabbè, scrive Y2K, poi dopo come si pronunci. Sì. Non è dato sapere. Allora, è un piccolo dialetto di Londra questo. I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody move. Let's find out and see, Cardi B. You know where I'm at, you know where I be. You run the club, just to party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months, what bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me. They see pictures, they say goals, bitch, I'm who they tryna be. They low, bitch, you can't fuck with me. If you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. If you cool, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now on speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody move. E come ti sembrava questo pezzo? Dimmi un po'. Mi ricordava molto un film che era uscito anni fa, questa musica. Cioè? Un film ambientato a Tokyo, sulle macchine che correvano. Tokyo Drift. Bravo, non volevo dirlo, però è quello. Non so, forse è vero, hai ragione. Il suono sotto un po'. Hai ragione. Vero. Ma ultimamente mi piacciono molto questi brani che mescolano l'hip hop, il rap con questi suoni elettronici. Sì, mi ma sono molto carini. Sai cos'è? Ti fanno molleggiare, ti fanno rendere un po' bullo, sai, il figo, yeah, a sgranare. Torni indietro negli anni, praticamente. Sì, sì, non potevamo dirlo, però. Sì. Comunque, io sono a pezzi, Domenico. Dimmi, dai, confessati. Mi viene da piangere. Confessati. Prima stavo guardando, perché parlavamo di Elio. Ho scoperto che un altro gruppo si è sciolto quest'anno. Però scusami, se dici che parli di Elio, devi parlare così. Di Elio. No, questo gruppo non c'entra niente con l'Italia. Però è un grande gruppo punk rocker. Come si chiama? Ragazzi, sedetevi, perché questa qua è una notizia bomba. Io non la se la sapevate dovete scriverci e dirmelo, perché io adesso per 2 giorni non uscirò di casa. Anzi, avvisa lavoro, non vengo. Fino a giovedì non ci sono. No, aspetta, per 2 giorni, quindi sabato e domenica. Cazzo, mi sono fregato da solo. Fai una settimana, allora, dai. Lunedì arrivo. Si sono sciolti quest'anno gli Yellow Card. Ah, la carta gialla. Yes, ma voi anzi, sapete, le carte gialle, ma voi sapete che gruppone è gli Yellow Card? Sì. Cioè, da Ocean Avenue a Lights and Sound, cioè, hanno fatto dei pezzi impressionanti. Ed era un gruppo che suonava col violino. Sì, è vero. Che faceva gli assoli, era un gruppo eccezionale. E si sono sciolti. Infatti, adesso li chiamo e gli dico se mi vogliono con loro. Magari facciamo una riunione. Ma se si sono sciolti, non ci sono più. Ma io faccio da collante. Ma ragazzi. Faccio un po' come il Gianni Morandi della situazione. Uno su 1000 ce la fa, yeah! E appunto, e loro sono in 1000. Vabbè, altri gruppi, avevi detto che c'erano altri gruppi anche disciolti. Allora, altri gruppi che si sono sciolti quest'anno, l'unico che conosco sono i Black Sabbath, ma pensavo che non suonassero più da una vita. Vabbè, quindi hanno fatto il loro tempo, dai. Ora, io ammetto la mia ignoranza, però ci sono i Gatti Mezzi. Ah certo, sì, chi non li conosce? Ce l'ho come suoneria. No, questo gruppo però va nominato perché sono 3 ultra gnocche. Io penso che non siano vere, ma siano tipo degli androidi, che sono le Girls' Generation TTS. Andate su internet a vederle perché sono 3 gnocche asiatiche, e quindi già l'occhio mandorla al suo fascino. Poi ci sono Alex e Sierra, famosissimi Alex e Sierra. Dal 2013 erano famosi, per questo che io non li conosco. Ma che cazzo li conosci? Non lo so, quest'anno si sono sciolti questi gruppi. Poi c'è un altro gruppo musicale, l'Emperor, che deve essere un qualcosa, penso, legato alla musica elettronica. No, questi li conosco invece io. Li conosco, hanno fatto un po' di brani elettronici, stile, per dirti, Giorgio Moroder, molto anni 80. Non era male. Sai cosa l'ho capito? Perché loro sono norvegesi, quindi mi sa che è uno di quei paesi che noi abbiamo toccato. Ecco, a proposito di Norvegia, il prossimo gruppo viene dalla Los Angeles. Che Norvegia e Los Angeles sono proprio vicine, collegate dal Golden Gate, no? Tu attraversi il Golden Gate e vai in Norvegia. E tra l'altro il prossimo gruppo è anche collegato con i Chainsmokers, che in realtà penso che a orecchio qualche brano sicuramente l'hai sentito. È impossibile che non l'hai sentito. Di smoker un pacchetto al giorno. No, adesso fai così, ma fidati che li hai ascoltati. Loro sono Xilo, che poi tra l'altro vedi come è scritto con la O quella barrata, no? E che infatti e pensavo fossero tipo svedesi, no? Norvegesi. Io a memoria universitaria dovrebbe essere uno zero. Uno zero. No, però guarda che ho utilizzato anche nelle diciture, tipo. No, so che è anche una lettera nei paesi scandinavi. Infatti, per quello che mi è venuto in mente. Allora, mandiamo questo sondaggio. Scriveteci al 338-222-8983 e diteci se ha ragione Domenico o ha ragione Fabio. Il brano è Xilo e Live. Wake up, cause I'm on my way. 2 a.m. in the cabin, it's only Monday. And the driver knows my name. Yeah, I hope that I am on your mind. My head's out the window tonight. Staying up till the club shut down. Yeah, I work too much, so I had to get. I don't wanna go home. catch a flight of London or Tokyo. I come alive when we're together. I'm alive, I'm alive. A flight in London or Tokyo. I come alive when we're together. I'm alive, I'm alive. E quindi hai trovato una soluzione al tuo dilemma? No, non lo sapevo. Guarda, c'è arrivato anche un messaggio se vuoi. Dai, leggiamo. Allora. È il primo. Guarda, questa qui è una ragazza intelligente, guarda. Secondo me ha ragione Fabio. Brava ragazza. Gli inviamo il tuo autografo che sei diventato famoso. Va bene, va bene. Preparalo, prepara il pezzo di carta che poi te lo mando. Va bene. Anzi, andremo a tatuarglielo. Va bene, va bene. Tanto il mio tatuaggio, scusami, la mia firma non è grandissima, quindi qui occupo anche poco spazio. Anche bene, anche bene. Ma quindi tu cosa hai trovato poi alla fine? Intanto qualcuno sta morendo. Ma scrivendo Xilo o Xil Zero mi sono usciti fuori tutto tranne che quello che stavo cercando. Però nel mente ho detto, vabbè, dato che non lo trovo, mi ero incaponito. Ho detto cambiamo notizia. Ho capito, ho capito. Quindi hai capito quanto mi ero incaponito. Se sembra, sembra che ci stiamo un po' perculando da soli, però, devo dirti la verità. Che cazzo. Vabbè, no, però sai che dato che siamo sempre a Los Angeles, ho detto vediamo che cosa c'è a Los Angeles. No, aspetta, introduciamo bene. Allora, il prossimo brano, che è l'ultimo per oggi, purtroppo oggi è così, oggi siamo proprio alla fine, veloce veloce. Siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli. Loro sono gli Friend. Che vabbè, adesso te lo spiego, sarà Friend. Ovviamente c'è questa moda di togliere le vocali, rimangono solo le consonanti, quindi Friend. Ma che moda è? Ma non lo so, ma l'ha lanciato qualche DJ, sai quando fanno i Tomorrowland, c'erano alcuni DJ che facevano questo giochino qua con le parole. Bravissimo. E praticamente ci sono tanti gruppi che si chiamano così, quindi hanno solo le consonanti, in questo caso Fernd. Ed è l'ultimo brano di oggi e loro, guarda caso, vengono da Los Angeles. Da Los Angeles. E io cercando qualcosa su Los Angeles Non ho trovato niente, cioè ho trovato una notizia. No, io ho trovato una notizia, però non è che c'entra molto. Tipo, c'è stato il saluto dei vampiri a Los Angeles. Quella che ho trovato anch'io. Ma poi... non sapevo che ci fosse queste comunità che si mettessero i canini finti per diventare vampiri. Sì, sì, sì, sì. Vuoi seguire qualche programma su, sai, quelle tipo real time, così ci sono un po' di cose del genere. E poi ho trovato anche una notizia importantissima, che Chiara Ferragni e Fedez non si sposeranno a Los Angeles. No! Questa cosa qua ci rende molto tristi, ed è per quello che noi mettiamo invece un pezzo che si chiama Be Happy. Ecco, capito? Quindi Chiara Ferragni, noi siamo qui, se vuoi venire con noi, cioè non ti preoccupare. Sì, noi... sì, spazio ce n'è, non ti preoccupare. Spazio ce n'è, c'è un bel divanetto. Sì, sì, sì. Possiamo sì. comunque conoscerci. Che non è quello... di... You're not mine. Will you remember me? 'Cause I'll remember you, yeah, you. You went out and found somebody new, and that still hurts. It's taking everything inside my bones to say these words. Even if it's not with me, I just want you to be happy. Del lupo. Come tutte le cose belle hanno inizio e una fine, no? O no? Purtroppo siamo arrivati alla fine. Eh beh, giustamente. Ascoltate, però prima voi avete invitato la Ferragni, io invito Fedez. Vabbè, allora invitiamole tutte e due, però basta che ci prendiamo un paio di birre. Sì, infatti. Perché sennò cosa facciamo? Il regimoccolo. Poi due birre almeno. Noi li facciamo. Ma poi perché ne stavamo parlando, tra l'altro? Non è che mi ricordo. Ma perché eravamo passati a Los Angeles, ho visto qualcosa su Los Angeles, quindi chiacchieravamo, c'era questa notizia sul webs. Vabbè, oggi è stata una giornata pam pam scoppiettante. Scintillante! Spumeggiante! Mi viene in mente di Sventura, se non lo ricordo. Spumeggiante! E dobbiamo salutare un po' di persone. Allora, salutiamo Ivano, che è passato a trovarci, poteva portarci anche qualcosa da bere. E anche lui ci ha portato le birre, mannaggia miseria. Vero, vero. Ce le aveva promesse però, Ce le aveva promesse. Cari Ivano, se sei in ascolto, aspettiamo la prossima volta 4 birre. Ed è venuto anche a criticare. Bravo, è vero. 4 birre a testa. Miseria. Vorrei uscire sulle mie gambe. Grazie. E poi salutiamo Felice. Felice che è stato parte attiva. Felice? Sì, è parte attiva del nostro programma da casa. Salutiamo una ragazza misteriosa che ci ha scritto su WhatsApp. Che mi ha dato ragione, quindi io sono ancora più contento. Salutiamo il buon Fabio, non tu. Aspetta, salutiamo questa ragazza seduta che non so chi sia. È vero. Salutiamo. Ti chiami? Annalisa. Annalisa. Salutiamo Annalisa. Ciao Annalisa, la sentiremo dopo, da quanto ho capito. Sì. Che programma fai? Senti, io con l'inglese non ci vado d'accordo. Sì, dai, Wolfman Jack, dai, su. Vabbè, lo ascoltiamo dopo, mi raccomando, non lasciate la radio, ascoltiamo Annalisa. E no, aspetta, poi c'era qualcun altro da salutare. Sta dicendo il buon Fabio che sta suonando questa sera al pub di Narzo e Family Pub di Narzo. Salutiamo tutto pub. Che lo raggiungerò tra poco. Mi raccomando, pub, le birre. No, Simone, tra l'altro, devo dire verità, ho notato l'altro giorno, ero lì che stavo guardando prima di suonare, e c'hanno Luppolo 1, Luppolo 2, Luppolo 3, Luppolo 4, tutte ce le hanno. Minchia. Secondo scusate, me... ma è uscito così. Cioè, io sono un grande intenditore di birra, io sono a bere birra un po' tutta Europa. È un buon intenditore. Sono buone, ti devo dire. Preferisco quella, la Pilsner della Repubblica Ceca, io, se proprio mi devo sbilanciare. Questo dicendo a buon intenditore... Lasciamoci una pinta. Giusto. Infatti, sembra proprio... come minimo. Vabbè, salutiamo allora un po' tutti. Saluti dalla Cri. Ciao. Dal buon Fabio e dal buon Domingo. Giustamente. E ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao.